Restiamo sempre in Medio Oriente, vi proponiamo un'esclusiva però del quotidiano francese Libération su un documento molto interessante che poi ha innescato immediatamente una polemica tra le parti avverse. È un documento firmato dalla ONG Breaking the Silence, Rompere il Silenzio, in cui si riportano delle dichiarazioni di soldati israeliani i quali sostengono che l'esercito israeliano si è macchiato di gravissimi abusi contro i civili a Gaza, come una sorta di confessione. Ovviamente da parte israeliana, da parte di Tzal, dell'esercito, tutto è stato marcato come propaganda sostanzialmente politica pro-palestinese, ma in realtà il dossier di Breaking the Silence è davvero molto corposo e per la prima volta fa parlare dei testimoni che provengono proprio dall'interno delle forze militari israeliane. E siamo sul giornale.